Il mago di Oz. Dorothy, la protagonista della nostra storia, viveva in una fattoria del Kansas, nel cuore delle grandi praterie, con lo zio Enrico e la zia Emma. Lasciando vagare lo sguardo dalla loro casetta di legno, fatta di un'unica stanza, non vedeva intorno a sé che terra grigia arsa dal sole. Dorothy aveva un solo amico, che amava teneramente, Toto, un cagnolino nero. Di solito Dorothy e Toto passavano la giornata divertendosi insieme, ma un giorno accadde qualcosa che interruppe i loro giochi. Lo zio Enrico, seduto sotto il porticato, e Dorothy, in piedi dietro di lui con Toto fra le braccia, osservavano inquieti il cielo grigio e minaccioso, quando udirono il sibilo sordo del vento del nord e videro l'erba alta della prateria ritirarsi prima del temporale. Poi da sud giunse un suono tagliente. Lo zio balzò in piedi. «Emma, sta arrivando un ciclone! Vado a occuparmi degli animali!» e corse alle stalle. «Presto, Dorothy!» la incitò la zia Emma. «Corri in cantina!» e scese la scala che portava in un piccolo antro scuro scavato nel terreno. Dorothy fece per seguirla, ma proprio allora un tremendo colpo di vento scosse con violenza la casa. Ciò che accadde dopo fu davvero una cosa straordinaria. La casa girò su se stessa 2-3 volte e poi si alzò lentamente nell'aria. I venti del nord e del sud si erano incontrati proprio nel punto in cui sorgeva la casa, esattamente nell'occhio del ciclone. La forte spinta del vento l'aveva sradicata dal suolo, facendola volare sempre più in alto, fino in cima alla tromba d'aria. Il cielo era minaccioso e il sibilo del vento aveva un tono sinistro, ma dopo i primi scossoni iniziali, la casa prese a ondeggiare dolcemente. Dapprima Dorothy era terrorizzata al pensiero di spiaccicarsi al suolo se la casa fosse precipitata a terra, ma via via che le ore passavano senza che succedesse nulla di terribile, la sua preoccupazione scemò. Si trascinò sul pavimento oscillante fino al suo lettino e, con Toto al suo fianco, poco dopo era profondamente addormentata. Furono risvegliati da uno scossone così forte e improvviso che se non fossero stati nel soffice lettino si sarebbero certamente fatti male. Passarono vari secondi prima che si rendessero conto che la casa non si muoveva più e che la luce del sole inondava la stanzetta. Dorothy saltò giù dal letto e con Toto alle calcagna corse ad aprire la porta. E quale non fu il suo stupore quando vide che si trovava in un luogo di straordinaria bellezza. Da qualunque parte girasse gli occhi, vedeva aiuole di fiori bellissimi e uccelli dalle brillanti piume colorate che cinguettavano su alberi carichi di frutti succulenti. In lontananza si distinguevano casette rotonde, tutte dipinte di blu, e poi ecco venirle incontro le più strane persone che avesse mai visto. Erano 3 uomini e una donna, e sebbene sembrassero molto più vecchi, non erano più alti di lei. Gli uomini, tutti barbuti, erano vestiti di blu dalla punta degli stivali alla cima dei capelli e appesi ai loro buffi copricapi portavano dei campanellini che tintinnavano dolcemente. Anche la donnina aveva un copricapo, ma era bianco, come il suo vestito. Aveva il volto rugoso e camminava con fatica verso Dorothy. Come le fu vicina, fece un profondo inchino e disse con voce dolce: «Oh, nobilissima fata, sii la benvenuta nella terra dei leccadolcini. Ti siamo grati per avere ucciso la perfida strega dell'Est e per avere liberato il nostro popolo.» Dorothy ascoltava stupefatta. Che diavolo voleva dire? «Oh, beh, lei è molto gentile, ma ci deve essere uno sbaglio. Io non ho ucciso nessuno.» «Sarà stata la tua casa», rispose la donnina, «il che fa lo stesso. Guarda, ecco là i suoi piedi.» Dorothy guardò e cacciò un urletto di paura. «Oh!» Proprio lì, da sotto la casa, spuntavano 2 piedi calzati da scarpette d'argento appuntite. Quella perfida strega ha tenuto in suo potere tutti le cadolcini, costringendoli a lavorare per anni, di giorno e di notte, spiegò la vecchietta. Ora sono tutti felicissimi di sapere che è morta e mi hanno subito avvisata. Io sono la strega del nord. Oh, povera me, gridò Dorothy, sei proprio una strega vera? Certamente, però sono una strega buona e la gente mi vuole bene. Non sono potente come la perfida strega che governava questi poveretti. Se no, ci avrei pensato io a liberarli. Ma io credevo che tutte le streghe fossero cattive. Oh no, questo è un grosso sbaglio. Nel regno di Oz vivevano 4 streghe. 2 di loro, quella del nord e quella del sud, sono streghe buone. Io questo lo so, perché sono proprio una delle 2. Quella dell'est e quella dell'ovest, invece, sono streghe perfide. Ma ora che tu ne hai uccisa una, è rimasta solo quella che vive a ovest. I leccadolcini, che erano rimasti nei pressi in silenzio, presero a gridare, indicando l'angolo della casa dove giaceva la perfida strega. La vecchia sorrise quando vide che i piedi della strega morta erano scomparsi e l'unica cosa rimasta erano le scarpette d'argento. Era così vecchia che si è polverizzata sotto il sole, ma le scarpette d'argento sono tue, cara, e dovrai mettertele. Le raccattò, scosse via la polvere e le porse a Dorothy. La strega dell'est andava orgogliosa di queste scarpe d'argento, disse un leccadolcini. Sono certamente scarpe incantate, ma non abbiamo mai saputo di che incantesimo si tratti. Oh, grazie, esclamò lei. Mi stanno a pennello, ma ora ditemi, potete aiutarmi a ritrovare la strada per tornare nel Kansas? Gli zii saranno certamente in pensiero per me. I leccadolcini e la buona strega si guardarono. Guardarono Dorothy e poi scossero la testa. Io non so dove sia il Kansas, non ne ho mai sentito parlare, disse la vecchietta. Vedi, qui nel regno di Oz, un gran deserto ci isola dal resto del mondo. L'unica possibilità che hai di ritrovare la strada di casa è andare alla città dello smeraldo e chiedere aiuto al grande mago di Oz. E lui è un uomo buono? È un buon mago ed è più potente di tutte le streghe. Se poi sia un uomo o no, io non posso dirlo perché non l'ho mai visto. Come arriverò alla città dello smeraldo? Segui la strada di mattoni gialli, ti condurrà attraverso una terra amena e piacevole a volte, ma tetra e terribile altre. Io non potrò accompagnarti, cara, ma ti darò un bacio e nessuno oserà far male a una persona che è stata baciata dalla strega del nord. Baciò Dorothy sulla fronte e lasciò un'impronta tonda e splendente. Poi, con un cenno di saluto, volteggiò 3 volte sul calcagno sinistro e sparì. I leccadolcini fecero una riverenza e si persero tra gli alberi. Rimasta sola, Dorothy si preparò al viaggio. Indossò un abitino di percalle a quadrettini bianchi e blu, prese il cappello di paglia, riempì un cestino di pane e si incamminò. Il sole splendeva, gli uccellini cinguettavano e presto anche lei divenne molto allegra. Dopo aver camminato per parecchi chilometri, si fermò per riposarsi e si sedette su uno steccato che recingeva un campo di grano e lì vide uno spaventapasseri. La sua testa era un sacco pieno di paglia, gli occhi, il naso e la bocca erano dipinti. Era vestito con un vecchio e scolorito abito blu dei leccadolcini ed era tenuto dritto da un palo piantato per terra. Dorothy stava osservando quella buffa faccia dipinta quando le sembrò che le facesse l'occhiolino. Pensò di essersi sbagliata, ma poi vide che il fantoccio le sorrideva davvero e allora gli si avvicinò. Buon dì! Fece lo spaventapasseri. Oh, ma tu parli? Certamente! Come stai? Oh, non c'è male, grazie. E tu? Io non sto niente bene. È proprio una tale noia star qui giorno e notte a spaventare gli uccelli. Se tu mi togliessi da questo palo, te ne sarai infinitamente grato. Dorothy si avvicinò e lo sollevò dal palo. Oh, grazie, grazie tante. Mi sento un altro ora. E dimmi, tu chi sei e dove vai? Mi chiamo Dorothy e sto andando alla città dello smeraldo per chiedere al gran mago di Oz di farmi ritornare nel Kansas. Dov'è la città dello smeraldo? E chi è il gran mago di Oz? Ma come, non lo sai? No, io non so niente. Sono pieno di paglia, sai. E non ho nemmeno un po' di cervello. Credi che se venissi anch'io alla città dello smeraldo, questo Oz mi darebbe un po' di cervello? Beh, questo non posso dirtelo, ma se vuoi, puoi venire con me. Oh, grazie, te ne sono proprio grato. Così Dorothy e il suo nuovo amico si misero in cammino insieme lungo la strada dei mattoni gialli, in cerca del meraviglioso mago di Oz.